Allora, intanto io vorrei che ci godessimo per un attimo il bellissimo momento che stiamo attraversando. Cioè, noi siamo sempre abituati a darci la zappa addosso, però apprezziamo il momento, finalmente abbiamo una cosa importante, abbiamo dei dati e della trasparenza, e questo viene fuori non a caso, lei l'ha detto all'inizio, ma perché c'è stata una decisione governativa. Io le dico però che questa decisione governativa è figlia di una nuova Italia, di un nuovo ambiente. 20 anni fa non ci avremmo mai pensato noi a chiedere, a pretendere questi dati. Quindi godiamoci anche un'Italia che sta maturando e sta pretendendo di più. Sì, anche sul fronte dell'evasione, è vero, è vero. Sì, questo è un bel momento. Quindi sono sempre... Adesso poi, goduto il momento, cominciamo a dirci che ci facciamo con questi dati. Anche perché ogni volta che esce un dato bisogna stare estremamente attenti a non rovinare il fatto che abbiamo quel dato con delle decisioni sbagliate in base a quel dato. Un leader di un'organizzazione, perché li pagano così tanto nel settore privato? Li pagano così tanto perché dai leader, che sono delle singole persone, possono emanare dei risultati su tutta l'organizzazione estremamente importanti. Se c'è un leader molto bravo, i guadagni di produttività che ottiene l'organizzazione possono essere enormi. Quindi non è detto che noi dobbiamo essere felici se compensiamo poco una persona. Dobbiamo essere felici di compensare poco una persona se quella persona è poco efficiente. Certamente abbiamo un problema nel settore pubblico perché la misurazione della qualità dell'azione di un dirigente è complessa, molto più che complessa nel settore privato, dove almeno ci abbiamo i ritorni dell'azienda e tutto e così via. Però direi che adesso possiamo cominciare a parlare di questi dati, possiamo per esempio cominciare a vedere. Abbiamo detto che questi compensi dipendono dai rischi che prendono questi dirigenti. Beh, cominciamo a mapparli questi rischi, questo lo possiamo sicuramente fare. E una volta che li avremo mappati i rischi di questi dirigenti pubblici, vedremo che ci sono dei dirigenti che si prendono più rischi, che sono pagati uguali a dirigenti che si prendono molti meno rischi, come per esempio lei diceva, il direttore dei monopoli. Immagino che può darsi che sia un'azienda che in effetti abbia meno rischi. A quel punto sappiamo che dobbiamo tagliare i compensi del direttore dei monopoli. Una volta che abbiamo fatto tutto questo, abbiamo equiparato con grande calma, senza farci prendere dalla prescia, perché potremmo fare se no degli errori se ci facciamo prendere dal populismo. Una volta che li abbiamo equiparati a livello di rischio all'interno dell'Italia, chiediamo al presidente dell'Istat, esattamente come ha fatto per i politici, di fare una ricognizione su come sono i compensi di analoghe organizzazioni nel resto dei paesi civilizzati, nel resto dei paesi occidentali. Andiamo a vedere se a parità di rischi il capo della polizia in Francia è pagato tanto quanto il capo della insomma, polizia insomma, quello dell'FBI guadagna $150.000, quello di Scotland Yard in Gran Bretagna ne guadagna 306.000 di euro, per carità. Ecco, lei mi sta dicendo che non c'è bisogno di fare l'inchiesta del No, c'è bisogno, però insomma, alcuni li abbiamo già, ecco, non tutti. Sì, voglio dire, è una cosa che si può fare rapidamente, insomma, abbiamo la condizione necessaria, finalmente ce l'abbiamo, abbiamo i dati. Ed è una notizia fenomenale. Adesso non molliamo, non prendiamo decisioni affrettate, perché è molto importante avere della gente brava ai vertici della pubblica amministrazione. No, ma siamo d'accordissimo su questo.